la mia vita sei tu, dentro i sogni la mia felicità sei tu, il mio sole sei tu, nei tuoi occhi la mia voglia di te. Stella di ogni mattino, ti vorrei nella notte vicino. Tu sei mio dolcissimo fiore, la poesia del mio canto d'amore. Ma se non avessi più te, vivrei triste e sola, perché sei tu, la mia vita sei tu, dentro i sogni la mia felicità. Mio dolcissimo fiore, la poesia del mio canto d'amore. Ma se non avessi più te, vivrei triste e sola. Sei tu, dentro i sogni, la mia felicità.